Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Eccoci qua, è un last minute atipico in quanto è in scena, partito dal 6 febbraio, ma sarà presente sul palcoscenico Teatro delle Moline fino al 18 febbraio. Ho voluto dare ampio spazio in quanto all'interno della rassegna Focus Lavoro, curato da ERT. Dal 6 al 18 febbraio Scandisc, do alcune informazioni relative agli orari e le giornate di programmazione. Martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, mercoledì alle ore 19 e domenica alle ore 18:30. La scrittura di Vitaliano Trevisan, recentemente scomparso, suicida, scrittore e altro di origine vicentina. Di lui ho dato in Voltiamo Pagina il lavoro Works, una denuncia sull'alienazione nel mondo del lavoro e non solo sulle contraddizioni che vi sono nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda Scandisc, con la regia di Jacopo Squizzato, che ho avuto modo di conoscere e portare con questa breve conversazione per i contenuti del lavoro stesso, in prima assoluta vi sarà modo di entrare in approfondimento per i contenuti che appunto ho enunciato in precedenza. Nell'ambito di Focus Lavoro, importante, abbiamo già conosciuto con Kepler 452 Il Capitale, in seguito poi ispirato da Jean Genet il lavoro Le Serve. Ecco, per ERT, onore al merito che ha dato al mondo del lavoro un'attenzione traslata in un panorama culturale. Vi è una dicotomia purtroppo netta, il famoso dividit et impera portato dai poteri forti per il mondo di pubblicazione artistica, produzione artistica, culturale, ricerca, diffusione culturale, e il mondo invece della produzione dal basto, dagli operai, da lavoratrici e lavoratori dipendenti. Ho vissuto entrambe le situazioni e quindi, insomma, fa molto male vedere quando queste due realtà sono così separate, e non solo, anzi hanno motivi di critica abbastanza importante, mentre invece sarebbe opportuno procedere assieme, e questo lo dico già da tempo. Beh, intanto allora cominciamo con Jacopo a conoscere i contenuti di Scandisc, poi torneremo a parlare di tutto ciò che può essere lavoro e teatro per Emilia Romagna Teatri e questo focus di approfondimento sul mondo del lavoro. Scandisc di Vitaliano Trevisan, la regia è di Jacopo Squizzato, che è qua al telefono con noi. Intanto buongiorno e grazie per la disponibilità, Jacopo. Buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo al Teatro delle Moline in via delle Moline 1B a Bologna e inizierei appunto con un piccolo approfondimento di presentazione a proposito del contenuto, di cosa parla lo spettacolo e da cosa è tratto. Lo spettacolo è il primo testo della trilogia World Star di Vitaliano Trevisan. Il testo Scandisc, che mettiamo in scena alle Moline, parla della storia di tre magazzinieri, tre operai, tre giovani operai che sono in pausa. Si tratta di fondamentalmente cinque episodi di pause lavoro scagionate nell'arco di diversi mesi, dove loro progettano un colpo, organizzano una rapina per trarsi fuori dalla condizione lavorativa in cui vivono. Oltre a questo, il titolo, che fondamentalmente si riferisce a un programma di utility informatica che ha come funzione quello di scansionare la superficie dell'hard disk del computer, mette in contrapposizione o in paragone due lavori diversi: il lavoro della scrittura, dello scrittore a computer che vorrebbe, come dire, scrivere ma ha una memoria frammentata del computer, e il lavoro invece operaio manuale, insomma, in fabbrica. E in questa contrapposizione, insomma, della metafora informatica dell'autore. E vi sono dei contenuti molto forti anche col mondo del lavoro nell'attualità, insomma, tra il disagio, il confronto tra diverse realtà di lavoro dipendente. Com'è nata l'idea per quanto riguarda il contenuto di parlare a proposito del lavoro? Allora, c'è da notare che l'autore stesso lavorò in quella fabbrica di cuscinetti a sfera. Nel momento in cui poi poi dopo si strappò la schiena, smise di lavorare lì, al che ha dedicato quest'opera ai suoi compagni di lavoro e al suo amico Xino, Dino detto Xino, che sarebbe il maschile di Xina, quasi a prenderlo in giro, insomma. Quindi lui arriva a questa circolare interna, etica, comportamentale durante l'orario di lavoro, che arreca tutta una serie di, come dire, norme che i lavoratori devono seguire, e per lui l'etica comportamentale durante l'orario di lavoro è dedicare questo testo ai suoi colleghi e compagni di lavoro. Questa è un po', diciamo, la scintilla che ha fatto nascere questo testo per l'autore, insomma, da quello che io so, insomma, ho letto e mi sono documentato. Per quanto concerne invece Emilia Romagna Teatro Nazionale Fondazione, rientra nel focus lavoro che coinvolge questo spettacolo come altri, quindi la volontà, insomma, anche di ERT di porre lo sguardo al tema del lavoro nella sua attualità. Della Scape, musica elettronica tra l'ambient, il glitch pop e quella che è un'elettronica forbita, non è altri suoni ma è un last minute dedicato in scena, è una colonna sonora che ho voluto dare al mondo del lavoro trattato da Scandisc in Teatro delle Moline dal 6 al 18 febbraio 2024. L'autore l'italiano Trevisan, con noi il regista Jacopo Squizzato, tante le collaborazioni, dalle scene di Alberto Favietto, dalle musical sound design di Andrea Gianessi, dal disegno e luci Tiziano Ruggia, sguardo sul movimento Michela Lucenti, che già abbiamo conosciuto al microfono con In Scena, assistente alla regia Katia Mirabella. Quindi un lavoro molto composto con Mauro Bernardi, Beppe Casales e lo stesso Jacopo Squizzato. Elettricista, poi capotecnico, poi facchino nella logistica, poi la scelta definitiva di cambiare completamente vita e lavoro, in quanto le condizioni lavorative erano veramente, oltre che sottovalutate, precarie, ridotte in condizioni peggiorative da quando nel 1988 mi avvicinai al mondo del lavoro dipendente. Già da allora motivo di critica, ma rispetto ai tempi contemporanei e attuali, insomma, un lusso. Per cui il peggioramento vi è stato, e come, le motivazioni sono tante. Fra i motivi da analizzare per con Emilia Romagna Teatri anche questa divisione, questo aspetto del dividi et impera nel mondo del lavoro e nel mondo della produzione artistica, della diffusione culturale, è qualcosa, come ho detto, che non dovrebbe essere assolutamente divisivo, anzi per procedere di pari passo e per conoscere ulteriormente le realtà lavorative e come vi sia stato un peggioramento costante. Interessante nella seconda parte di conversazione con Jacopo Squizzato, regista in scena per Scandisc, nella narrazione portata come tante cose siano nate in pausa, la famosa pausa sul lavoro, no? Anche qui abbiamo momenti che sono un palcoscenico di cui vi potrei raccontare di tutto e di più. Ho vissuto delle pause chiamate pause pranzo che praticamente niente o erano inesistenti o erano sempre funzionali al lavoro stesso, con riunioni o corsi ovviamente non retribuiti, che non erano per la formazione del dipendente ma erano indirizzate a una commercializzazione ulteriore del prodotto stesso, per cui insomma ve ne sono tante di motivazioni per quanto concerne il mondo del lavoro, sempre strumentali a quelli che vedono percorsi peggiorativi in tutto ciò. L'operaio è sempre più un oggetto e sempre più qualcosa per non dare uno sguardo all'aspetto di produzione, alla fatica, all'alienazione, al valorizzare anche la figura stessa del dipendente, ma come notai già dai tempi, qualcosa che è più vicina e come a un motivo di sfruttamento il più possibile, senza alcun ritegno. E questo ha dato adito fortunatamente anche a Hertz a darne una visione portandolo sul palcoscenico. Cito Kepler, che con il Capitale ha portato operaie e operai JKN sul palcoscenico stesso, con Scandisk un'altra visione ancora, che appunto l'alienazione, le contraddizioni che vi sono nel mondo della cosiddetta produttività. Sentiamo la seconda parte di dialogo con Jacopo Squizzato. Lo spettacolo, tra l'altro, oltre alla narrazione ci saranno anche narrazioni in musica, suoni, oggetti scenografici. Ci puoi dire qualcosa di più? Certo, condivido la scena con Beppe Casales e Mauro Bernardi, siamo in tre, e le scene di Alberto Favretto. Fondamentalmente abbiamo creato un bunker, una sorta di bunker in esterno, perché gli operai fanno pausa nel retro di un magazzino, di un magazzino in esterno, di fronte a questa rete che li separa da questa oasi del WWF che esiste veramente a Vicenza Nord. E dal punto di vista poi sonoro abbiamo anche lì giustapposto con Andrea Genessi, il sound designer, sia i rumori, come dire, convenzionali, appunto, di una fabbrica e dei lavoratori che operano lì, con quelli di un hard disk rotto, di un hard disk che non funziona. È un vero e proprio allestimento con scene, costumi, luce e suono, e su questo ho tentato di agganciare drammaturgicamente suono, luci, azione drammatica assieme, soprattutto nei cambi scena tra un episodio e l'altro. È dal 6 al 18 febbraio, ovviamente 2024, Teatro delle Moline, per ERT Emilia Romagna Teatro, chiaramente a Bologna, martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, mercoledì alle ore 19 e domenica alle ore 18:30. Scandisk di Vitaliano Trevisan, grazie per questa conversazione al regista Jacopo Squizzato, al quale do appuntamento per un altro motivo di incontro, e auguro una buona giornata. Grazie. Anche a voi. Grazie. immaginare adesso. E mai letto la mail, altro che pausa pranzo. Sentire questa divisione, ma voi non fate mica niente, voi non lavorate mica, no, beh, stai sempre a parlare a un microfono, no, beh, insomma, io conosco tutte e due le realtà, comunque in tutti i modi, qualunque tipo di lavoro, se fatto con passione, è da rispettare, e indipendentemente da questi stereotipi tremendi che vengono portati in maniera divisiva, apposta, come ben sapete, per tenere lontani due mondi che dovrebbero essere paralleli, anzi in intersezione costante, il sistema capitalista liberista non vuole assolutamente ciò. Darne denuncia è sempre importante. Allo stesso modo denuncio anche l'altra parte, probabilmente a volte troppo altezzosa e lontana da quelle che sono delle quotidianità costanti e soprattutto gravemente limitanti per quella che è una crescita nell'attualità e nella cultura. E tutto ciò volutamente portato, Scena invece portiamo l'attenzione in mostra per il Breakfast Club odierno, ancora un po' di musica che ci traghetta giovedì, giornata, come ben sapete, definisco di forza e a regola d'arte per il Breakfast Club. Conosceremo presso Musei Civici Medievali di Bologna dal 18 novembre, quindi anche in questo caso già in esposizione, ma è fino al 17 marzo presso Museo Civico Medievale Lippo di Dalmasio e le Arti a Bologna tra 300 e 400. Un periodo importante per la nostra città di cui parleremo a breve sui 103.1. A tra poco.